Sura degli uomini, capitolo 114 del sublime Corano, rivelata alla Mecca, consta di 6 ayat ed è scesa dopo la Sura 113, Al-Falaq. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso e il clementissimo, di chiedo protezione al Signore degli uomini, Re degli uomini, Dio degli uomini, contro il male del sussurratore furtivo che si tira indietro, il quale sussurra nei petti degli uomini, sia egli del genere dei jinn, sia egli del genere degli uomini. Sadaqallahu l'azim, walhamdulillahi rabbil alamin.